dell'Italia, dell'Italia repubblicana e ancora dell'Italia di oggi. Io mi fermo qui, poi ovviamente la scaletta prevede la relazione del professor Battini e la possibilità di fare domande, di approfondire ulteriormente anche con la sollecitazione dei molti adulti che vedo distribuiti tra il pubblico, ma soprattutto gli studenti. Alla professoressa Poncina il compito di presentare il nostro relatore. Una presentazione molto breve perché non voglio rubare tempo. Se dovessi dire tutto quello che ha scritto o le cariche che ha dato San Battini ci metterei troppo tempo. Dico solo che questo ciclo è nato per me da un suo libro che è questo, Peccati di memoria, un libro del 2003, mi ha detto il professore, che è La mancata non verga italiana. C'è un problema molto grosso, molto indicato, perché da noi in Italia non sono fatti i conti col passato, e questo passato o è ignorato o è manipolato. Quindi fare un punto di verità è importante. Il professore è ordinario di storia contemporanea all'Università di Pisa, ma voglio ricordare solo poche altre delle sue molte attività e dei suoi molti incarichi. È presidente del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell'Università di Pisa e su questi temi ha scritto e ha, credo, anche tenuto seminari in Israele, anche a New York e in altre parti del mondo. E poi, perché mi interessa direttamente, è membro del Comitato Scientifico dell'ISLI, cioè dell'Istituto di Storia della Nazionale di Storia della Resistenza, a cui il nostro istituto Istrevi, uno storico di Vicenza, è collegato. E ricordo anche che il direttore di una rivista piuttosto importante come Passato e Presente, per chi ama dibattere di queste cose. Io sulla quantità poi di studi fatti e di libri scritti non mi dilungo, dico solo a voi che ho visto che spazio dalla storia francese, perché c'era un testo molto interessante, L'ordine della gerarchia sulla crisi della democrazia in Francia 1789-1915, andiamo da questo tipo di storia a poi alla storia dei crimini della memoria, la storia delle rappresaglie civili nella resistenza, nella guerra di liberazione, e insomma ha un campo, un raggio di indagini, di ricerca, di studi vastissimi. Quindi quando avrete domande da fare avete senz'altro la possibilità di ricevere delle risposte molto consapevoli, molto strutturate, e ci aiuterà tutti a capire un po' più di più di questo passato. Buon ascolto a voi e lascio la parola. Va bene, quindi non sapete con chi prendervela. Sì, naturalmente vi parlerò di alcuni fatti di storia, però ponendo a questi fatti delle domande eterne e che nella coscienza di ognuno di noi rimangono irrisolte, poi almeno nella mia coscienza, tutta la vita. Partiamo da Mandela. Appena scomparso, quello che è sicuramente uno degli ultimi grandi uomini del secolo passato. C'è un bellissimo ritratto di lui che il premio Nobel poesia ha scritto sulla New York Review of Books. Mandela passò 27 anni in carcere in una lunga storia di resistenza al regime di apartheid, cioè di segregazione, che caratterizzò il Sudafrica fino alla metà degli anni 90, dove una minoranza bianca dominava una stragrande maggioranza di neri. Voi sapete che Mandela è stato anche insignito del premio Nobel per la pace, non per questa sua vita straordinaria, ma per una scelta che fece per come gestire il passaggio da quel regime di apartheid alla democrazia sudafricana, in cui naturalmente si dovevano anche fare i conti con la repressione, le persecuzioni, le incarcerazioni, ma anche le stragi che avevano colpito i neri, i movimenti dei neri e dei neri e dei bianchi insieme, perché c'erano dei bianchi che combattevano assieme ai neri per la liberazione dal regime di apartheid. Non scelsero per fare conti con quel passato, per processare i responsabili dei crimini contro l'umanità che erano stati commessi, la via del processo, della giustizia penale, cioè non furono processati i responsabili, poliziotti, agenti segreti, militari, politici di quei fatti, ma scelse una via originale, non originalissima perché c'erano già state delle esperienze in altri paesi, ma un po' originale nel modo in cui si può applicare in Sudafrica. Il luogo dei tribunali furono costituite delle commissioni per la verità e la riconciliazione. Delle strutture complicate che non è il caso di descrivere nei loro dettagli istituzionali e normativi, ma che sostanzialmente dovevano servire a restituire autorità morale allo Stato del Sudafrica, a curare la verità sul passato atroce, ma anche, lo dice la parola, riconciliare la società divisa da questi decenni di apartheid. Questo aspetto, la riconciliazione, scusate, c'è un dettaglio, Paola, i tuoi schiavi sono qui. La riconciliazione era l'aspetto più importante, cioè il primato della pace sociale. Come realizzarlo? Come funzionavano queste commissioni? Venivano ascoltate le vittime, o i parenti delle vittime, se le vittime non erano sopravvissute. Si sollecitavano le testimonianze, si ponevano a confronto testimonianze e racconti delle vittime, la difesa degli imputati, e poi si procedeva alla diffusione pubblica del risultato di queste forme di combinazione di diverse procedure. C'era un'inchiesta, c'era l'ascolto delle testimonianze, c'era la deposizione degli imputati, sino ad arrivare a una sorta di verità condivisa, che veniva in cambio al pubblico come verità ufficiale, invece di una sentenza, come accade in un processo. Tutto questo avrebbe potuto consentire, da una parte, il risarcimento morale delle vittime. Erano previste anche dei risarcimenti pecuniari, materiali, e quindi una giustizia anche distributiva a fianco a questo racconto della verità. Ma soprattutto sarebbe stata concessa ai colpevoli l'amnistia in cambio della confessione. È un modello molto complesso, originale, e in cui si combina la procedura penale, si combina la logica del dialogo, dell'interrelazione, e si combina anche una sorta di passione religiosa per la riconciliazione. Non a caso al presidente di questa commissione, che lavorò per 7 anni, vi era un vescovo, il vescovo anglicano della Chiesa, il primato della Chiesa anglicana in Sudafrica, Desmond Tutu, e anche Desmond Tutu fu insignito insieme a Mandela del premio Nobel per la pace. Perché parto da qui? Perché questo modello di giustizia fu il frutto di un'esplicita intenzione: andare oltre le esperienze della pratica della giustizia internazionale che si erano conosciute dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, sostanzialmente dal processo internazionale di Norimberga celebrato nel 1946 contro i vertici del sistema nazionalsocialista, o il processo di Tokyo celebrato in Giappone nei confronti del responsabili della guerra d'aggressione agli Stati Uniti. Quindi un modello anche di giustizia diverso, non più la procedura penale, ma una commissione che doveva curare la verità e al tempo stesso favorire la riconciliazione, e un ideale di giustizia non più retributiva, come si dice nel gergo dei penalisti, cioè che ricompensa la vittima risarcendola con la pena inflitta al colpevole, ma restaurativa, che restaura un clima. Domande? Il fine di queste commissioni è soprattutto realizzare la pace, riconciliare il finale. Questa riconciliazione è in parte avvenuta forse a spese della verità, perché il tipo di giudizio sui fatti, sui crimini che si è determinato con queste pratiche, è un giudizio che naturalmente comporta l'accordo, in qualche modo, tra colpevoli e vittime, tra istituzioni e parti della società. Non c'è una verità della parte, non c'è una sentenza, ma la verità è il frutto di una logica di contrattazione da senso alto del termine, non nel senso naturalmente commerciale. Quindi una pratica costituzionale che ha fondato l'ordinamento del nostro Repubblica, ma che ci pone delle domande su quale modello di giustizia sia stato inaugurato da queste commissioni e che tipo di verità, perché poi questi fatti rimarranno come documentazione, i fatti accertati rimarranno come documentazione per gli storici del futuro. Non c'è dubbio quindi che in questo esempio, l'esempio dell'oggi, l'esempio risvegliato dall'attualità di Matera, ci riporta immediatamente a un tipo di problema che ha caratterizzato la mia generazione, ma anche le generazioni precedenti, e che ha accompagnato, diciamo, la storia degli ultimi 70 anni. Cioè, quando siamo di fronte a fatti inauditi, a crimini di dimensioni tali che è persino difficile catalogare, torneremo su questo caso, e poi soprattutto a responsabilità che è difficile accettare, perché quando si persegue lo sterminio di una popolazione, la repressione degli appartenenti a una religione diversa, quando abbiamo a che fare cioè con forme di persecuzione dei diritti e delle vite che appartengono alla categoria di crimini contro l'umanità, poi spiegherò anche che cosa significano questi, quindi crimini non legati semplicemente a una guerra o a eventi straordinari, ma crimini contro la natura stessa della persona umana, questi crimini sono macro crimini, cioè sono crimini che possono essere effettuati soltanto se i responsabili dell'attuazione di questi crimini sono molti, il che implica che deve esistere un apparato, una struttura per realizzare questi crimini. Per deportare gli ebrei in Europa, concentrati e sterminati, era necessario un apparato di decine di migliaia di persone che andavano dai responsabili politici fino ai ferrovieri che conducevano i treni. Gli esecutori delle sentenze nei casi di processi e nei casi di attacco nei confronti delle truppe tedesche, come coloro che sterminavano in massa le popolazioni civili. La macrocriminalità implica sempre la necessità di un apparato e soprattutto una divisione importante. Chi comanda il crimine è diverso da chi lo esegue. Quindi questa distinzione fa sì che da una parte chi comanda il crimine e lo escogita non vede la conseguenza concreta del proprio crimine. Chi esegue si può trincerare dietro la formula "ho appunto eseguito un comando politico", che era un comando legittimo nel sistema in cui io vivevo e a cui dovevo obbedire. Di fronte a questo, il diritto, i processi, le procedure penali tradizionali, a partire da quelle attuate nel processo internazionale di Norimberga, ma anche il diritto che è all'opera nel processo penale normale, diventa inefficiente perché è funzionale unicamente alla scoperta di una responsabilità individuale. Ma di fronte a crimini di questa dimensione si può parlare di responsabilità individuale, cioè il responsabile è colui che porta Mandela in prigione, sono i poliziotti che hanno sparato sugli studenti neri che protestavano nel 1975 all'università di Johannesburg, oppure i soldati italiani che deportavano i prigionieri jugoslavi nei loro campi, nel campo dell'isola di Rab e così via. Non è l'esecutore, ma neanche l'ideatore stesso è facilmente individuabile. Pensate al famoso problema di qual è stato l'ordine da cui è partito il genocidio di Libera Europa. Esiste un ordine? È stato trovato l'ordine di Hitler? Ecco, di fronte a queste enormi difficoltà e anche alle contraddizioni di come ha funzionato concretamente la giustizia nel secondo dopoguerra, è stato avviato questo modello. Del resto che la giustizia del secondo dopoguerra, cioè processo di Norimberga, ma poi anche tutte le procedure di giustizia che sono state realizzate nei singoli paesi nel corso del dopoguerra, da quelli occupati a quelli danneggiati, aggrediti, a quelli come l'Italia che hanno avuto nella loro una fisionomia piuttosto complessa e oscillante, tutte le pratiche di giustizia sono andate incontro a considerazioni di carattere storico, giuridico e morale profondamente contraddittorie. Vi ricordo che il paese che naturalmente è al centro dell'attenzione, è stato al centro dell'attenzione, cioè la Germania, sempre il paese che nel 1939 iniziò la guerra di aggressione contro l'Europa, vide a metà degli anni 80, dalla metà degli anni 80 alla fine degli anni 80, una fortissima discussione sollecitata anche dagli storici, lo chiamarono Historical Sry, cioè il dibattito e il confronto degli storici su come era stato ripensato attraverso la giustizia il passato tedesco dopo Norimberga e dopo i processi che erano stati celebrati in Germania da parte delle autorità giudiziarie tedesche, a cui gli alleati avevano conferito il compito di giudicare i propri connazionali. Dopo alcuni anni e l'avvio di alcuni processi, dall'inizio degli anni 50 c'era stata una sospensione dell'attività giudiziaria e anche per le pressioni delle potenti organizzazioni dei reduci, per il problema del consenso, per il problema che anche Mandela cercò di risolvere, cioè quello della coesione, della ricostituzione di un tessuto di convivenza civile, il tentativo di sanare le ferite, i processi furono sospesi. Intervennero alcune amnistie, ma soprattutto si dimenticò. Questo in un paese molto serio, rigoroso come la Germania, in cui proprio a partire dall'85 ripensare quella frattura, la frattura della guerra, del nazismo, la frattura della guerra e la frattura della insoddisfacente giustizia post-bellica produsse appunto questo dibattito e un giudizio di fallimento di quello che viene considerato in termini psicanalitici applicati alla storia l'Aufarbeitung, cioè l'elaborazione del trauma. Il trauma di essere tutti colpevoli in qualche modo del proprio passato. Ma non è stata i tedeschi, è stata quella di dire tutti colpevoli del proprio passato, compartecipi del proprio passato. Il nostro caso è un po' diverso. E qui arrivo al tema per cui mi avete invitato a discutere. Vi leggo un breve brano che, pensate, soltanto 10 anni dopo la fine della guerra, un magistrato scrisse e pubblicò su una rivista che la si chiamava Il Ponte. Parlava questo magistrato, che si chiamava Adolfo Battaglia, della epurazione. È un termine che indica, come voi sapete, l'allontanamento dei costi di responsabilità pubblica delle persone che avevano avuto responsabilità politiche, militari e penalmente rilevanti nel passato regime fascista. Leggo. Alcune delle norme sulla depurazione, all'eccezione di quelle che concedevano ai collaboratori, non sono mai state effettivamente applicate. Le prime condanne sono state annullate dalla Corte di Cassazione, poi le amnistie di grazia accordate dal 46 al 48. E gli stessi criteri adottati dalle autorità giudiziarie in questi processi hanno discreditato persino le sentenze. I patrimoni non sono mai stati confiscati. I crimini delle unità mobili, fasciste e tedesche, che erano state laboriosamente ricostituite per evitare che piombassero nell'oblio, non sono stati puniti. L'epurazione insieme alla funzione pubblica ha conosciuto un scatto bruciante. Le importanti responsabilità politiche del fascismo sono state trasportate, mi fermo qui. È un elenco molto lungo e così. È un giudizio, quello di un magistrato, che gli storici hanno puntualmente ripreso. E questo è importante perché è il tema della verità che ho posto all'inizio. I tribunali depositano le commissioni, nel caso delle sentenze, dei giudizi, che poi gli storici devono considerare se fanno parte anche di una premessa, sono parte di una premessa della verità. Molti storici hanno ripreso questo giudizio, il giudizio di Battaglia, ma di altri magistrati come Alessandro Gallate Garrone, che definì l'epurazione una falsa. C'è su questo giudizio un nodo importante che non affronto, ma che sicuramente con i vostri insegnanti avete discusso: il problema della continuità istituzionale, normativa, di apparati e anche di persone fra il regime fascista, lo Stato monarchico e la Repubblica. C'era stata la frattura, era finita la guerra, ma poi gli uomini in buona sostanza non potevano che essere, continuare a essere gli stessi, e molti di questi esercitavano le stesse funzioni. Ora, il giudizio sull'Italia in realtà oggi lo possiamo sfumare, perché le inchieste storiche sono andate avanti non solo rispetto al 1955, ma rispetto anche agli anni passati, e sappiamo che l'epurazione è stato un fenomeno complicato. All'inizio l'epurazione, cioè nei primi mesi, fu anche un fenomeno cruento, e in assenza di un quadro giuridico normativo certo fu un'epurazione che non fu anche esente dai colori della vendetta politica. Vi furono anche circa 10.000 esecuzioni sommarie, questo va detto, che continuarono anche dopo la fine della guerra. Vi furono 30.000 processi con procedure straordinarie in tribunali presieduti dalle autorità del Comitato di Liberazione Nazionale, ma questo è il clima dell'immediato dopo questo. Poi, nell'anno che va, diciamo, dal primo governo Bonomi, dal primo governo di unità nazionale nella parte liberata, sovrano nella parte liberata del paese, sino al novembre, vi erano anche dei decreti importanti, furono anche dei decreti importanti per quell'epurazione di cui parla Battaglia, cioè l'epurazione severa della funzione pubblica, 35.000 processi istruiti contro responsabili dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, di cui 18.000 conclusi, 2.500 espulsioni dalla funzione pubblica. Dov'è e quand'è che cominciò il meccanismo a bloccarsi, anche se era un meccanismo un po' farraginoso, ripeto, un quadro normativo piuttosto discutibile, non certo, c'erano dei decreti, c'era un commissario per l'epurazione, vi erano strutture di collaborazione tra nord e sud, ma non era così semplice, quando l'epurazione cominciò a toccare i gangli del potere economico. Si parla sempre di un procedimento, di un decreto, scusate, nel 1946 voluto dal ministro della giustizia, che era anche segretario del Partito Comunista, Palmiro Togliatti, che come voi sapete fu intercettato dalla Corte di Cassazione e dalle magistrature in senso estensivo sino a toccare le altre sfere dello Stato. Fu una scelta politica su cui la discussione storica è aperta, ma sicuramente aveva come obiettivo lo stesso delle commissioni, dell'istituzione della Commissione Sudafricana, cioè evitare di lacerare il paese, evitare di estendere l'operazione sino a colpire una fascia così larga di popolazione necessariamente coinvolta nella vita del regime, tale da produrre sul nuovo assetto istituzionale un condizionamento estremamente pericoloso. Prima di quella amnistia, però, c'era stato un provvedimento varato dal ministro Nenni che toccava l'epurazione dove? Nelle grandi industrie, nelle grandi banche, perché avrebbe potuto inficiare che cosa? La ricostruzione economica. E la ricostruzione economica era la base della coesione. Vedete quanto sia complicato? Cioè, quante partite in realtà, nella semplice idea di quella che appare la semplice, tra virgolette, triangolazione tra fare giustizia, appurare la verità, riconciliare, sono aperte, la ricostruzione di un paese, la coesione morale, il risarcimento delle vittime, appurare la verità storica, rispettare la memoria. Questo è il quadro delle partite. E quindi siamo alla questione della Norimberga italiana, naturalmente, che non riguarda però gli italiani direttamente all'inizio, riguarda gli alleati, cioè apparentemente coloro che avrebbero potuto, come dire, considerare in modo diverso la questione. Anche qui non c'è un tribunale, un'autorità giudiziaria indipendente, ma sono le autorità militari alleate che hanno la responsabilità sia dell'inchiesta sui crimini commessi in Italia, sia dell'attuazione della giustizia. Quali crimini? Punto fondamentale. Di cosa si sta parlando? Dei crimini commessi dalle truppe di occupazione tedesche nel periodo 1943-45. Ma naturalmente il problema è molto molto complesso, perché si tratta di appurare, diciamo, responsabilità che sono ancora una volta attribuibili a un sistema più che a individui. Stiamo parlando quindi del periodo in cui l'Italia non è più la vecchia, almeno una parte dell'Italia non è più il vecchio paese alleato del Terzo Reich. È un paese che ha cambiato la sua posizione nel quadro internazionale. Dal 1943 c'è stata l'invasione alleata nel sud, che è proseguita arrivando quasi a liberare buona parte dell'Italia meridionale e una piccola parte dell'Italia centrale. L'Italia è un paese che è sotto stato di occupazioni e ha l'autorità di tre governi diversi. Due occupazioni, quella alleata al sud e quella tedesca al nord, perché c'è la contromanovra nazista naturalmente, ma anche tre governi diversi. Il governo della Repubblica Sociale, alleato residuale del Terzo Reich, il Regno del Sud, l'autorità monarchica che si è trasferita nel Sud abbandonando Roma, e poi la Resistenza e le autorità della Resistenza, quinto di Liberazione Nazionale d'Italia, e al Sud il governo dei partiti di coalizione. In questo quadro, anche sul piano istituzionale molto complicato, i crimini da giudicare, che vengono commessi, che sono giudicati dentro la guerra, sono i crimini della cosiddetta guerra ai civili. Cioè, più che i crimini commessi contro i partigiani, certo anche contro i partigiani combattenti, arrestati e in alcuni casi ingiustamente fucilati, e quindi più che le rappresaglie in senso stretto, le rappresaglie nei confronti delle popolazioni civili o i massacri nei confronti delle popolazioni civili non motivati da rappresaglie. In poche parole, la complessa macchina investigativa delle autorità riuscì a dimostrare che questi crimini, di cui parlerà credo Paolo Pezzino in uno dei prossimi appuntamenti, non furono l'effetto di responsabilità individuali, cioè di scelte soggettive dei singoli comandanti in zone operative, ma di un sistema costruito nel marzo del 1944 sulla base di un accordo tra il generale Wolff, autorità suprema della SS nel nord dell'Italia, e il generale Kesselring, comandante in capo della Wehrmacht, per distribuirsi i compiti nella repressione della resistenza e del sostegno alla resistenza. Avvenne dopo l'attentato di Via Rasella nel marzo del 1944, fu esteso ai comandi di corpo d'armata, la 10ª e la 14ª, fronte adriatico, fronte tirrenico, e trasmesso con lievi modifiche alle singole sotto unità. Quindi tutte le stragi che costellano la complessa vicenda degli anni 43-45 di civili sono in realtà frutto, questa è l'istituzione di scelta alleata, non di eccessi contingenti, ma di un sistema di ordini, che poi dipendeva dal modello della controrappresaglia della guerra resistenza dell'Europa centro-orientale, trasferito nell'area mediterranea, e da input di Hitler, Keitel, Kesselring. Kesselring, Bond, un sistema. Gli inglesi che erano i responsabili delle inchieste, c'era una sezione che si chiamava Special Investigation Branch, furono straordinariamente efficienti, molto meno gli americani, nelle loro inchieste. E tutti gli episodi da cui partivano riuscivano a provare che rimontavano a questo sistema. Il punto è, inchiesta bene, ma quando si comincia a giudicare, che cosa accade? Razionalmente si muovono a fare due cose. La grande strage di Roma, via La Sella, cave attentato di via La Sella, massacro del cave Ardeatini, è un caso, prima di questo sistema, si fa un processo contro i comandanti di Roma e dell'area tirrenica, Mackensen e Metzen. Per tutti gli altri si fa quella che viene chiamata nei documenti dagli alleati An Italian Nuremberg, cioè dopo Norimberga si trasferiscono interpreti, strutture di traduzione, funzionari, tecnici e anche una parte dei magistrati in Italia e si fa il processo al sistema di comando del Wehrmacht SS, quindi un grande maxi processo, si direbbe oggi in termini di informazione televisiva, termine orribile ma rende l'idea, perché sono decine di, quindi macro criminalità, vedete ancora una volta, giudicare un caso di macro criminalità. Perché questo processo non è mai stato fatto? Quindi non è più in gioco la continuità dello Stato italiano, non è più in gioco il compromesso tra protagonisti del regime e protagonisti della nuova democrazia, la necessità degli italiani di non lacerarsi troppo, porre fine alla guerra civile, alla guerra di resistenza, ai suoi postumi. Qualcosa è diverso, sono gli alleati. Perché lo fanno? Intanto perché sono divisi. I sovietici pensano alla giustizia internazionale in un certo modo, gli alleati occidentali in un altro. A chi deve giudicare chi? È un problema. Tribunale internazionale, un tribunale militare, le autorità italiane? Se si accetta di consegnare le autorità italiane, però gli italiani dovranno consegnare i loro criminali di guerra alle autorità nazionali dei paesi in cui hanno commesso crimini di guerra. In quale contesto? 1946. Cosa accade nel 1946? Ci sono state le elezioni amministrative. Chi ha vinto le elezioni amministrative? Il nord è in mano ai rossi. Le grandi città hanno dato la maggioranza al fronte popolare. Non c'è ancora, ma insomma, l'alleanza Partito Comunista, Partito Socialista. Le elezioni politiche. Nel giugno 1946 per la Costituente la maggioranza si è allargata. Addirittura alcune regioni del sud sono a maggioranza di sinistra. Referendum istituzionale, ha vinto la Repubblica. Ah, fermiamoci, dicono gli alleati, perché rischiamo di dare una mano all'ala radicale, scrive il giudice supremo militare britannico in Italia, all'ala radicale dell'antifascismo. In più, c'è un contenzioso, ma che cos'è l'Italia? Dal 39 al 43 è un paese aggressore. Francia, Grecia, Jugoslavia. Ha seguito la Germania su tutti i fronti. Ha inseguito la Germania su tutto il mondo, quindi corresponsabile intanto della guerra di aggressione, ma l'Italia non è stata giudicata a Norimberga per il reato di conspiracy, cioè di complotto per la guerra di concorso e complotto per la guerra di aggressione. Secondo, dal 43 non solo ha firmato l'armistizio, ma il paese come belligerante, non ci hanno voluto all'altezza dello statuto di alleati, ma almeno come belligerante con gli alleati contro la Germania. 46 è un altro Stato, è una Repubblica. La Repubblica è erede della monarchia, c'è una continuità naturalmente, come sappiamo, del diritto internazionale, delle responsabilità di uno Stato. Ma sono complicate poi da gestire nella pratica. Facciamo un esempio, che ci spieghiamo subito. Nel 43 il re, dopo la pubblicazione dell'armistizio, 8 settembre, è fuggito. Se n'è andato a Brindisi, nel sud, ha abbandonato così 600.000 militari italiani su tutti i, scusate, milioni di soldati italiani su tutti i teatri di guerra, di cui 600.000 saranno internati. Colui, sapete che c'era? Sì, vabbè, tutti i diritti, Badoglio, nuovo capo del governo ed ex criminale di guerra per i reati commessi nella guerra d'Etiopia, mai processato, cioè fu tentato un processo, ma poi fu. Ma ci sono due personaggi, i marescialli Ambrosio e Roa, che erano capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e capo di Stato Maggiore dell'Esercito nel nuovo governo Badoglio. Questi due personaggi erano stati comandanti sui teatri di guerra in Jugoslavia, nei Balcani, ed erano ricercati dagli alleati per crimini di guerra, cioè per crimini commessi contro il diritto di guerra, lo ius in bello, quando si cucinano per esempio illegalmente dei prigionieri o quando si fanno rappresaglie contro l'occupazione di Russia. Allora gli alleati che li aspettano a banco quando arriva il re a tutti, ma scusa, Ambrosio e Roatta ce li potrai consegnare. Il re e Badoglio si rifiutano. I comandanti sloveni di Dalmazia del 43 non vengono consegnati e sono accusati di crimini di guerra. Ci sono richieste di estradizione che vengono costantemente rifiutate. Questo tipo di rifiuto porta alla crisi del primo governo Bonomi e all'allontanamento di chi? Non di questi generali, ma dell'alto commissario per l'operazione, Sforza, e dell'alto commissario aggiunto, Scorcimano. Il nuovo capo di Stato Maggiore, generale Messe, protesta per la fucilazione di alcuni ufficiali in Jugoslavia e per la fucilazione del generale Bellomo, che è stato fucilato dagli inglesi perché aveva ucciso personalmente un prigioniero di guerra inglese. Insomma, inizia che cosa? Una specie di partita diplomatica molto complicata in cui la nuova Italia cerca di rompere con il vecchio passato, ma al tempo stesso gli stessi alleati sono incerti su come andare avanti nel perseguire verità e giustizia. E la lunga lista dei criminali di guerra italiani, ambasciatore Battanini, generale il capo di Stato Maggiore Roatta, Ambrosio, generale Lobotti, Magalli, Pizzo Bidoni, Garbara, il governatore della Dalmazia Giunta, ne potrei aggiungere, non sono nomi dimenticati, non verrà mai tradotta in un ordine di adesso. Ma gli stessi alleati decidono di non celebrare la Norimberga italiana. Verrà fatto soltanto un processo a Roma per la strage di via La Sella, verranno fatti pochi altri processi. Il più importante di questo è il processo di Venezia nel 47 al capo dell'esercito tedesco, il Feldmaresciallo Kessler, che sarà un processo abbagliante dal punto di vista dell'eco dell'opinione pubblica. È fantastico rileggersi i giornali di quei tempi. È una campagna d'opinione che fa di Kessler un mostro, ma quando si costruiscono i mostri non si capiscono i meccanismi reali. Sembra che abbia fatto tutto lui, e lui ha anche buon gioco a difendersi in alcuni casi. Naturalmente poi, quando emergono quegli ordini che dimostrano che esiste un sistema che dipendeva da lui per la costruzione della guerra civile e dei massacri, Kessler stesso si trova in difficoltà. Alla fine verranno celebrati pochi processi e poi gli alleati consegneranno alle autorità militari italiane il compito di fare gli altri processi. Ma gli italiani, visto il modo con cui gli alleati hanno governato la condotta della giustizia, avranno buon gioco a celebrare alcuni processi, alcuni sono rimasti famosi sino a poco tempo fa, insomma. In fondo il processo Prib, che non è che la riapparizione di uno dei responsabili della strage delle fosse delle Atine, o delle cave, si dovrebbe dire più correttamente, Atine, per cui fu già processato Kappler, ed era già stato processato il capo di Kappler, il generale Metz. Alla fine tutto questo si conclude con la sospensione della giustizia da parte degli alleati. Il maxi processo non si fa, si fanno pochi processi e poi gli altri si interrompono. Si consegna la responsabilità alle autorità italiane. Le autorità italiane che cosa fanno? C'erano alcuni processi, poi lentamente cercano di gestire questa giustizia che aspetta l'Italia come una forma di condizionamento in una trattativa con la Germania e con gli alleati, una trattativa diplomatica. Sostanzialmente, sospendendo queste procedure nei confronti dei responsabili tedeschi, si chiede che anche i criminali italiani non vengano consegnati alla Jugoslavia, alla Grecia e ai paesi che potevano reclamare questa differenza. È una trattativa che sul lato tedesco si conclude, come voi sapete, all'inizio degli anni 50, quando il ministro degli esteri, il ministro della giustizia dell'allora governo in carica, Martino e Damiani, sostanzialmente decideranno l'archiviazione di circa 600 processi. E c'è un'italianissima scena finale che i faldoni di tutti questi processi verranno seppelliti in alcuni armadi della procura militare vicino a Roma, procura militare suprema, quindi l'alta autorità di giustizia militare, in alcuni armadi. Gli armadi verranno girati con le ante rivolte al muro e sono stati scoperti, come forse qualcuno di voi ricorda, solamente qualche anno fa da un procuratore militare, il procuratore interessante. C'è un libro di Klinghammer, che è uno storico tedesco, e Filippo Focati, che credo abbiate già ascoltato, che racconta questa italianissima conclusione. Quindi da una parte si voleva giustizia nei confronti dei tedeschi, ma dall'altra si operava in questo modo concretamente. C'è una bellissima pagina dei Taccuini di guerra di Benedetto Croce che racconta l'esigenza da cui nacque questa idea di giustizia, cioè questa volontà di processare pubblicamente, diciamo, il Terzo Reich e la Germania, facendo del processo uno specchio in cui il popolo tedesco riconoscesse la propria responsabilità. Ma in quella stessa pagina Benedetto Croce scrive che l'Italia al tempo stesso doveva raccogliere le prove di queste stragi e celebrare questi processi per effettuare una sorta di catarsi del proprio dolore, perché l'Italia soggiacque, soltanto subire al fascismo, come se gli italiani non avessero nessuna responsabilità. Per essere il governo Bonomi, sempre lo stesso che cito, il primo ordine del giorno che votò nel 1944 è una dichiarazione di irresponsabilità degli italiani negli atti del regime, cioè gli italiani già dal 1940 sarebbero stati assolutamente estranei al consenso nei confronti della guerra. E ritorno al problema che ho posto all'inizio e mi avvio a concludere con alcune considerazioni più generali. L'intreccio dei problemi era enorme. I militari che furono tedeschi, che furono processati in Italia, non lo furono neppure con il diritto penale internazionale che era nato da poco, cioè con le imputazioni che erano state utilizzate nel processo di Norimberga. Furono processati con il codice militare britannico. Il codice militare britannico aveva riconosciuto le convenzioni internazionali sottoscritte da tanti paesi dopo la prima guerra mondiale, e per lui e per questo codice la rappresaglia, per esempio, nei confronti di civili a certe condizioni era legale e in molte altre condizioni era illegale, cioè si possono bombardare i territori da cui viene un attacco partigiano o si possono espropriare i beni, si possono perseguire i responsabili della guerriglia, ma non si possono fucilare gli ostaggi, non si possono fare massacri indiscriminati. Il codice militare tedesco non l'aveva recepito, quindi ho eseguito gli ordini, era la classica risposta dei militari tedeschi processati. Allora, di fronte a due codici incoerenti e in cui l'autorità giudicante è un'autorità militare del paese vincitore e l'altro è, diciamo, la difesa ufficiale, che cosa si può dire delle procedure di attuazione della giustizia? Sappiamo che la Wehrmacht non era estranea al sistema nazista, sappiamo che i crimini di guerra sono un risultato oggettivo di questa inchiesta. Gli alleati stessi erano molto incoerenti, perché la guerriglia e l'azione partigiana erano state incoraggiate deliberatamente. Il programma Alexander del 1944 è un programma che colpisce ogni tedesco ovunque si trovi, quindi anche l'azione di partigiana non rispondeva assolutamente ai criteri che gli stessi italiani ci avrebbero voluto consumare rispettare. ma soprattutto c'era questa incoerenza, due codici nazionali applicati in un contesto dello stesso contesto. E gli offensori dei tedeschi si difendevano i propri imputati proprio richiamandosi al codice Balzoc, che era il codice militare. Questo coacervo di contraddizioni fece sì che mentre una parte delle autorità giudiziarie britanniche, dopo aver concluso quei processi e aver combinato quelle sentenze, Meltzer, Mackensen, Chiesi, non furono condannati a morte, quelle autorità si trovavano di fronte l'opposizione del governo stesso della Gran Bretagna. Winston Churchill, che non era più al governo, scrisse una lettera alle autorità giudiziarie dicendo: non ha nessun senso continuare a fucilare, non ha nessuna utilità politica continuare a fucilare i responsabili di questi i conservatori inglesi, quindi. E anche il governo, che era un governo laburista, si adeguò a questa indicazione, ma soprattutto si dimostrò che era difficile con quel processo arrivare a determinare le vere responsabilità. Se si fosse applicato nella Norimberga italiana mancata il codice di Norimberga, sarebbe cambiata la cosa? Ecco, questo è il punto fondamentale, e da questo poi arrivo, ritorno rapidamente al nodo affrontato ponendomi delle domande sulla questa straordinaria e discutibile a questo stesso esperienza moderna del Sudafrica. Che cosa si giudicava a Norimberga nel 1946, quando vi erano quelli quattro ordini di sedili su cui erano disposti quello che quelli che erano i rimanenti del vertice del Terzo Reich, per il maresciallo Göring, Keitel, e quelli che voi conoscete, che riconoscete anche nei filmati di quel processo. Ci si trovava di fronte a una quantità di eventi che era difficile patronaggiare con le categorie del diritto internazionale vigente, cioè quelle convenzioni che peraltro la Germania non aveva sottoscritto. E quindi fu necessariamente codificato un nuovo diritto internazionale. Il charter o carta o statuto del processo di Norimberga, cioè dell'International Military Tribunal, è in realtà il documento costitutivo di quello che Verne, che è il massimo studioso del diritto dei crimini internazionali, definisce appunto il diritto dei popoli, il diritto internazionale. È la base della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, è la base della Convenzione sul Genocidio, è la base della Convenzione sulla tortura, è la lontana premessa della Corte Penale Internazionale, cioè di quella struttura che oggi per fortuna esiste, il cui statuto è stato elaborato dal 1998 al 2002 a Roma, in cui è stato presidente, il cui primo presidente è stato un italiano, Antonio Cassese, recentemente scomparso, e che poi ha emanato attività dal suo seno, attività come il Tribunale per i crimini della ex Jugoslavia ed altro. Allora, è sicuramente un documento fondante di quello che Norberto Bobbio ha definito l'epoca del nuovo giusnaturalismo, cioè una nuova concezione dei diritti internazionali che va ben oltre l'orizzonte che è durato in Europa addirittura dalla fine del Seicento, cioè chi dice pace di Vestfalia del 1648, fino alle convenzioni internazionali dell'AIA del 1899 e del 1906. Perché? Perché è un diritto che non giudica più lo ius in bello, cioè l'eventuale crimine commesso contro le regole del fare la guerra, ma è un diritto che giudica anche la guerra come crimine, conspiracy, cioè complotto contro la pace, e i crimini commessi contro l'umanità. In che modo? Facendo lezione della conclusione tragica della Prima Guerra Mondiale, quando non si riuscì a processare il Kaiser per queste stesse ragioni. E non a caso Carl Schmitt, che qualcuno di voi avrà sentito nominare, un grande filosofo novecentesco, ma è stato anche il presidente dell'Associazione dei Giuristi Nazisti, scrisse subito un libro contro il diritto di Norimberga, anche se se la prendeva ufficialmente con il vecchio processo al Kaiser. Das Law of the Earth, cioè il diritto della terra, e qui c'era, guardate, qui si esce dall'orizzonte che rende possibile la convivenza umana, perché mai si devono processare i capi di Stato, mai si devono processare i capi di Stato. Chi può stabilire in un processo chi ha scagliato la prima pietra, si potrebbe dire con, in termini evangelici, cioè chi ha iniziato la guerra, chi ha sparato il primo colpo di fucile, oppure chi porta le responsabilità di aver strangolato la Germania dopo la Grande Guerra, aver imposto i trattati di Versailles, aver posto le basi del successo di Hitler? Giocava pesante Carl Schmitt, ma la domanda è vera. Non si danno soluzioni facili. Allora ho introdotto il crimine, appunto, di aggressione, grande innovazione, perché allora a questo punto il fine del diritto internazionale è impedire la guerra, da allora in poi è impedire la guerra, basta che non diventi la giustificazione della guerra preventiva. Voglio impedire la guerra, non attraverso il processo, allora quindi faccio la guerra a chi vuole la guerra. È la famosa teoria della guerra democratica all'interno della filosofia dello scontro di civiltà, che oggi è stata diffusa, che in questi tempi è stata diffusa dopo soprattutto l'attentato alle torri gemelle. Crimini contro l'umanità. Cosa sono i crimini contro l'umanità? E sono quelli di cui parlavamo all'inizio. Cioè sono la persecuzione non nei confronti dei nemici, ma nei confronti al limite della tua stessa popolazione civile, per motivi religiosi, etnici, culturali, sociali, razziali, se le razze esistono. Quindi non crimini commessi in un contesto di guerra, ma crimini commessi all'interno di un sistema di macro criminalità. E quindi crimini che non cadono mai in prescrizione. Se un crimine non rientra nella categoria di crimine di guerra, la clausola 6C dello Statuto di Norimberga lo obbligava a includere nei crimini contro l'umanità. Una grande innovazione, però una innovazione che non riuscì a arrivare a tutti i responsabili. Era inevitabile. Furono 13 processi di Norimberga. Noi si dice, ognuno di voi pensa probabilmente al primo, quello dei filmati, quello con la sentenza a morte, con il suicidio di Kerin. Ne furono 13. E furono processati i vertici dell'esercito dopo, i vertici della magistratura, i medici che avevano realizzato il progetto eutanasia contro i portatori di handicap per la purificazione razziale della Germania, i magistrati stessi. Ma arrivare a livello degli esecutori o a livello della struttura di base di questa macchina era veramente difficile. Gli ultimi 3 minuti per riformulare allora alla luce di questo tragitto avanti e indietro, necessariamente avanti e indietro, partire dal logico e riformulare domande su quello che abbiamo vissuto e ripensare problemi che naturalmente andranno continuamente pensati, perché non sono più per portare risposte, ma riformulare domande alla luce dell'interrogazione del passato. C'è un aspetto comune, pensateci bene, a tutte queste procedure penali, cioè il diritto penale internazionale applicato nelle corti internazionali, sino a quelle attuali, da Norimberga sino all'Aia, nelle commissioni per la verità e la riconciliazione in Sudafrica, ma anche in Cile, in Argentina. E cioè il fatto che i crimini non possono cadere in prescrizione e che la giustizia significa garanzia della persecuzione dei crimini attuali. Però l'esecuzione dei crimini attuali può essere attuata con procedure diverse. Ci sono i processi che prevedono la persecuzione, il risarcimento, la giustizia cosiddetta appunto retributiva. Ci sono le commissioni per la verità e la conciliazione che prevedono una giustizia restaurativa. E ci sono poi forme che prevedono processi e poi amnistie. L'unica forma che è illegale dal punto di vista del diritto internazionale è l'amnistia generalizzata, cioè l'amnistia prima di un accertamento di responsabilità. Il punto è che queste procedure, hanno cercato tutte in qualche modo di combinare quelle che sono le finalità dell'accertamento delle responsabilità, la giustizia sicuramente, ma anche la verità e la riconciliazione e la pace sociale. C'è sempre un triangolo che chi si trova, politici, magistrati, religiosi, a gestire, governare il momento tragico della transizione da una congiuntura totalitaria, criminale, di guerra, a una congiuntura post-bellica di ricostruzione della città, deve fronteggiare. Non per caso si chiama International and Transitional Justice, giustizia di transizione. John Esther, che è professore di diritto e sociologia alla Columbia University, ha scritto un bellissimo libro intitolato Closing the Book, cioè fare i conti, saggi sulla giustizia di transizione. Transizione, da una situazione all'altra. Però in questa transizione, come regolare i rapporti tra giustizia, verità e pace? Questo è il punto fondamentale. Anche Esther trova difficile che tre valori siano, è come libertà, egalità e fraternità, insomma, se vogliamo giocare. Insomma, bellissimi principi, ma nel concreto. Allora, il punto fondamentale è che, diciamo, parafrasando Orwell, non so se avete mai letto La fattoria degli animali, a un certo punto Orwell, in questo splendido racconto, si conclude con una sentenza di uno dei maiali che dice: beh sì, certo, tutti i maiali sono uguali, ma c'è un maiale che è più uguale degli altri. Ecco, a un certo punto un valore deve essere scelto, e comparando le situazioni è sempre il valore della coesione sociale che è più alto, perché a un certo punto bisognava bloccare cosa? La macchina della giustizia per realizzare la pace. Il punto fondamentale qual è? È che non tutte le procedure, e su questo veramente chiudo, 60 secondi, sì. Non tutte le procedure della giustizia che rispettino anche questa scala di valori possono essere considerate immuni da alcuni livelli. E chiudo sulle commissioni, di cui oggi tutti discutono come un esempio che permetterebbe di uscire da questo modello insoddisfacente della giustizia del dopoguerra, Norimberga, la mancata Norimberga italiana, i processi in Germania, in Giappone, cioè queste commissioni. Quel modello di costruzione di una verità contrattata tra le parti, attraverso lo scambio, io confesso, tu però non mi punisci, c'è l'amnistia e c'è un risarcimento a posto dello Stato, dei privati, delle vittime, non distrugge qualcosa che, al di là dei difetti e dei limiti di applicazione del diritto internazionale, è importante nelle procedure processuali, cioè un nucleo razionale di conoscenza della verità. Il punto fondamentale è: nel processo penale si accerta la verità attraverso il riscontro dei fatti. L'accertamento dei fatti attraverso prove verificate è il nucleo razionale del processo penale. Poi naturalmente bisogna dimostrare, oltre a questa verità, che è la verità fattuale, che il fatto verificato è anche un reato. Quindi c'è un procedimento legale e un procedimento fattuale. Il procedimento fattuale è un procedimento storico. Cioè, quando io devo verificare se effettivamente è accaduto un fatto X nel passato, procedo esattamente come un giudice. No, procedo come un giudice quando non posso applicare le attenuanti generiche, diciamo, quando uso il contesto storico, perché il giudice lo usava in modo diverso. Però procedo come un giudice. La domanda è: si può rinunciare a procedere in questo modo, a procedere come giudici, come storici? Cioè, rinunciare a questo aspetto razionale della costruzione della verità attraverso l'aggiungimento delle prove. Si può accontentare della confessione, di una confessione che poi spesso è giocata, e qui infatti la discussione è aperta, perché i rischi sono enormi. E sono enormi, enormi anche perché quelle sentenze costruite in questo modo possono essere la base di una verità pubblica, di una verità storica che non è immune da peccati di memoria come quella costruita nel secondo dopoguerra. Tutto il pentitismo. Grazie, finito, scusate. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.